versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon lunedì 10 di marzo, sono le 16.35 e 38 secondi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 qua di Milano. Vado subito all'argomento del giorno per consentirvi di chiamare, perché questa è una puntata dedicata a voi che siete in ascolto, per farvi intervenire il più numerosi possibili, quindi 800 24 00 24. E la domanda è semplice: visto che c'è tutta l'Italia appesa al Consiglio dei Ministri di mercoledì per capire se il governo di questi 10 fantomatici, ipotetici miliardi di sgravi fiscali li concentra sull'IRAP, meno IRAP per le imprese, oppure per meno IRPEF per le curve basse dell'IRPEF, cioè più margini per le imprese nel caso dell'IRAP, oppure più combustibile nelle tasche dei lavoratori dipendenti per sostenere la domanda interna, diteci la vostra e diteci che cosa vi aspettate, cosa sarebbe preferibile per voi. È un dibattito nel quale io personalmente posso solo dire che ho visto finora poca precisione, nel senso che uno amerebbe che davvero ci fossero degli articoli, degli editoriali sui media in cui si spiega il potenziale impatto a breve e medio periodo di una cosa piuttosto che dell'altra, e si spiega anche che, continuando con un po' di briciole distribuite tra cose diverse, come troppo spesso si è fatto negli anni alle nostre spalle, obiettivamente gli effetti poi finiscono per essere trascurabili. Ricordatevi i 5 punti in meno di cuneo fiscale con il governo Prodi, che in sostanza fecero rimanere la bilancia della crescita potenziale totalmente invariata. È ovvio, da una parte, che le imprese Confindustria chiedano di concentrare gli interventi soprattutto sull'IRAP, ricordo a tutti un'imposta che si paga anche quando si è in perdita, un'imposta che colpisce chi più dà lavoro e che colpisce anche i beni strumentali di impresa, e che in parte serve a pagare la sanità, avendo sostituito anche le imposte con le quali si contribuiva al finanziamento della sanità regionale. Ed è ovvio dall'altra parte che i sindacati siano invece strenuamente favorevoli a concentrare il più delle risorse promesse da Matteo Renzi a favore del taglio dell'IRPEF. Poi ci sono anche imprenditori, per esempio Zuccato di Confindustria Veneto, che in questi giorni ha detto: "Bah, io come imprenditore sicuramente dovrei aderire alla tesi dell'IRAP, però per come vedo le cose preferirei quasi che si cominciasse invece con il taglio dell'IRPEF sulla parte più bassa della curva del lavoro dipendente". Poi ci sono anche da segnalare posizioni come quelle del vice ministro dell'economia appena nominato, Enrico Morando, che è espressione dell'ala liberal del PD, diciamo, la pensa un po' diversamente, parecchio diversamente rispetto a Fassina. Oggi, intervistato dal Messaggero, Enrico Morando ha detto: "Ma il più di questo litigio di chi vuole tirare questi 10 miliardi da una parte e dall'altra è infondato, perché", ci dice Enrico Morando, e speriamo che abbia ragione lui, cioè ci regali un'anticipazione vero di quello che deciderà il Consiglio dei Ministri di mercoledì, Enrico Morando dice: "Quello che non avete ancora capito è che noi per 3 anni di seguito, se dura il governo 3 anni, ma ogni anno mettiamo 10 miliardi di maggiori sgravi, quindi in totale mettiamo 30, quindi state pur sicuri", ci dice Enrico Morando, "che se cominciamo concentrandoli come giusto, poi la volta successiva sarà il turno dell'altra posta". Quindi Enrico Morando è più dell'idea, così aveva detto in passato, di iniziare concentrando sull'IRAP e sulle imprese la prima parte, però dice: "Qualunque cosa deciderà il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio, sappiate che gli sgravi saranno intorno a 30 miliardi in 3 tranche di 10 miliardi l'anno, naturalmente fidarsi che il governo duri 3 anni. Vediamo come la pensate voi, e iniziamo quindi a ascoltare le telefonate. Cominciamo con Michele, che ci chiama da Cuneo. Prego Michele. Sì, buonasera. Buonasera. Complimenti, Oscar. Edic. Io parlo di dipendente e purtroppo da una classe bassa, perché è così. Io credo che per far ripartire l'economia bisogna dare questi soldi alle aziende, perché le piccole e medie aziende sono il motore che trainano questa economia. E questo lo dico da dipendente con uno stipendio basso. Ah, personalmente, sì. Personalmente, no, è chiaro, questo girano, se gira bene il padrone, gira bene anche il dipendente. Mentre tu dici, se per le aziende continua a girar male, poi mi trovo senza lavoro e quindi va peggio per tutti. Io devo dire, capisco e condivido il tuo punto di vista, non so quanti tra il lavoro dipendente lo condividano. Io ho come un'impressione, ma non è suffragata da nessun dato di fatto, che in realtà siano in tanti. Capisco che i sindacati ovviamente si battano per una posizione che è diversa da quella che ci ha appena invece espresso Michele da Cuneo. Tra l'altro, altra cosa da considerare, c'è una distinzione ormai molto netta tra la posizione della CGIL e quella della FIOM, mentre il segretario della CGIL Camusso ha minacciato subito lo sciopero dicendo: Renzi non mi piglia sul serio, attento perché io convoco uno sciopero. Landini ieri, l'avrete letto forse su Repubblica, ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio Renzi. È ovvio che nel merito era una lettera aperta, che per quanto mi riguarda non condividevo una sola parola, perché chiede il capo della FIOM, che ha una dialettica molto aperta di scontro con la CGIL mentre il congresso della CGIL si è avviato, sulla questione della rappresentanza, perché come sapete la FIOM è su idee molto diverse rispetto all'accordo interconfederale che la CGIL ha firmato insieme a Confindustria, CISL e UIL, su il rispetto dei contratti e quindi l'esigibilità dei contratti, comprese le sanzioni a chi poi non li rispetta. Su questo punto la FIOM è contraria, ma insomma nel merito Landini proponeva ieri al governo di adottare misure come la diminuzione dell'età pensionabile, quindi smontare tutta la riforma Fornero, la riduzione degli orari, il no alla possibilità di contratti in deroga rispetto ai contratti nazionali, una vera e propria, tutto sbagliato, tutto da rifare. Però quello che conta è che lui ha un rapporto diretto con Renzi che la segretaria CGIL non ha, e anche questo complica un po' le cose naturalmente a sinistra e nel PD. Sentiamo come la pensa Gennaro da Napoli. Gennaro, tu cosa ti aspetti mercoledì e qual è il tuo ragionamento per il quale... come al solito, ecco, questo, perché vabbè, anni fa ci dissero salveremo l'Italia mettendo le tasse, fecero il decreto salva Italia, adesso gli stessi ci dicono salveremo l'Italia diminuendo le tasse, ma allora perché le hanno aumentate? E se non c'era bisogno di aumentarle, che ne hanno fatto di questi soldi? E se invece è possibile diminuirle, perché non l'hanno fatto da prima? Io veramente non capisco. Beh, Gennaro, il tuo è un ragionamento che fila. Il Salva Italia, ti ricordi, è il nome del decreto che fu adottato dal governo Monti nell'autunno del 2011, quando si trovò a succedere al governo Berlusconi Tremonti. La via tutta tasse, seguita da Tremonti e poi da Monti in continuità, è stata la peculiarità italiana che ha accresciuto, a mio giudizio, ma credo sia un fatto incontestabile, la perdita di prodotto e di reddito del nostro paese. La domanda che tu poni, perché alzano le tasse, era per non tagliare la spesa. Siamo a questa cifra di soli 10 miliardi attesa mercoledì, perché ancora nel frattempo la spesa non è tagliata, nel frattempo il rapporto Cottarelli sulla spending review ancora non lo conosciamo, si pensa che non sia più di 5 miliardi per l'anno in corso. Ricordo a tutti che l'incarico dato a Cottarelli di 32 miliardi in tre anni, ma come sempre all'italiana 17 miliardi venivano il terzo anno. Quando si tratta di tagliare la spesa è sempre così nel nostro paese, purtroppo. Ecco perché adesso si è creato un po', diciamo così, di gioco per questi 10 miliardi, e quindi alla domanda di Gennaro, come è possibile adesso che vengano tagliate, vediamo, questi tagli di spesa saranno solo 5 miliardi e vediamo nel frattempo che margine ci sarà poi per non bucare sul tetto del 3%. Sentiamo Paola da Roma. Paola da Roma, che si aspetta dal Consiglio dei Ministri mercoledì? Io dal Consiglio dei Ministri sono io in linea, pronto? Sì, sì, è in linea, prego Paolo. Sì, sono in linea io dal Consiglio dei Ministri di mercoledì. Mi aspetto che le tasse alle aziende vengano diminuite, ma soprattutto quello che non capisco è perché non si pensi mai a tassare la prostituzione, il che servirebbe anche a dare decoro alle nostre strade, perché io, abitando in provincia, mi creda, non faccio altro che passare davanti a signorine più nude che vestite, e a tassare di più i giochi, le slot machine e tutte queste cose che comunque non sono necessarie per vivere e possono comunque dare più gettito, e diminuire alle aziende, perché le aziende non ce la fanno a vivere e le aziende devono poi fuggire all'estero. E qui mi sembra una follia. Io ho una piccola azienda, veramente ho difficoltà anche ad assumere perché non riesce ad arrivare proprio alla fine del mese, perché se paghi tutte le tasse che hai, e sono talmente tante che a volte non riesci neanche a capire quante sono. Allora, Paola, quindi è l'idea, iniziamo dalle imprese, però fa delle proposte, cioè quella di legalizzare e tassare quindi la prostituzione, più imposte sui giochi. Guarda che sui giochi lo Stato prende già miliardi, Paola, e il problema è che li prende con aliquote molto differenziate per tipo di gioco, nel senso che le aliquote più elevate, che ammontano a oltre il 50%, sono sui vecchi giochi storici, cioè quelli delle vecchie scommesse calcistiche, il lotto e così via. Per intercettare i giochi nuovi negli ultimi 10-15 anni, quelli più tecnologici, le scommesse doppie, le slot machine e così via, lì la tassazione è iniziata con aliquote più basse, ma appunto perché lo Stato voleva ricondurre al monopolio, al monopolio di Stato, il controllo di tutti i giochi, e quindi per entrare nel settore, per così dire, e tagliare l'erba sotto i piedi del gioco clandestino, le aliquote più basse, perché al crescere dell'aliquota, cioè se equiparassimo quelle aliquote su questi giochi, che sono molto più basse di quelle altissime sui vecchi giochi, noi riregaleremmo aree al gioco clandestino, che comunque continua a esserci. Però queste sono le proposte che ci ha fatto Paolo. Adesso noi abbiamo un minuto di informazione stradale e poi continuiamo con le vostre telefonate. 800240024, il numero, lo ricordo ancora una volta, strade. La versione di Oscar. Nati 16:47 minuti 43 secondi, un po' dei vostri messaggi. C'è chi dice di avere capito che Renzi da Fazio darà il più ai dipendenti, vero, però anche all'interno del suo governo, come avete visto in questi giorni, il dibattito è ampio. Dopodiché c'è chi dice, vabbè, chi chiede perché l'Europa non può obbligare l'Italia a licenziare un po' i dipendenti pubblici. No, l'Europa non può obbligare a licenziare dei dipendenti pubblici. Oscar, ci sarà bene qualche simulazione? Le simulazioni si possono fare ovviamente quando si capirà bene quale sarà la graduazione, se intervengono sull'IRPEF, se davvero è sulle due aliquote basse e di quale ammontare, e allora uno può simulare in qualche maniera gli effetti di sostegno alla domanda, cioè la ripartenza dei consumi. È per questo che per il momento sapere solo un ammontare generale di sgravi non consente praticamente a nessuno di capire davvero e di quantificare in base ai modelli econometrici. Poi ci sono alcuni di voi che hanno condiviso l'opinione del dipendente, il primo ascoltatore che ha chiamato, perché ecco qua, condivido pienamente la dipendente che si deve agire prima sull'IRAP, se muoiono le aziende nessuno sarà più dipendente di niente, però sono più o meno altrettanto numerosi coloro che ci mandano i messaggi scrivendo: Oscar, adesso c'è un problema più di domanda interna che di offerta, meglio tagliare prima l'IRPEF e aiutare i consumi, poi il prossimo anno vedremo chi necessita di sgravi. Quindi per il momento raccogliamo anche tra voi ascoltatori opinioni tanto a favore dell'opzione meno IRPEF quanto a favore del meno IRAP. Sentiamo Bruno che ci chiama da Roma, prego Bruno. E in effetti io la penso come questi ultimi messaggi sono arrivati, perché per far ripartire l'economia, soprattutto il prodotto interno, bisogna rilanciare quei ceti che medi, che sono stati veramente penalizzati da questa crisi. E io me ne accorgo ogni giorno, perché svolgo una professione dove sono a stretto contatto con gli artigiani, le piccole imprese che mandano avanti la vera economia nazionale, che sono in difficoltà perché hanno problematiche nel acquisire commesse e anche di conseguenza problematiche nel riscuotere i crediti. Quindi se questi sgravi andassero a toccare effettivamente andassero a favore effettivamente delle famiglie, sicuramente saremmo tutti contenti, insomma l'economia ripartirebbe molto più rapidamente rispetto a quanto possa apparire che se gli sgravi andassero alle aziende. Allora io dico una cosa, siccome a mia opinione, vedremo mercoledì, è molto difficile immaginare delle misure che portino le due aliquote più basse a più di 100 euro concreti in tasca, che mi rendo conto, non sono pochi, ma sono sempre 100 euro, no? Io mi chiedo se invece, per esempio, un'altra proposta, quella lanciata in questi giorni da Luca Ricolfi, che abbiamo avuto recentemente il nostro ospite, e Luca Ricolfi dice: perché non facciamo come in Spagna? In Spagna hanno adottato una misura per la quale lo Stato per 3 anni limita per i nuovi assunti a solo il 10% del costo lordo i contributi, cioè in parole povere, con 1000 euro di costo aziendale allo Stato non va più di 100 euro. Ecco, Luca Ricolfi dice: facciamolo con il 20% invece che il 10% per tutti i nuovi assunti, con contratti di 1, 2, 3, fino a 4 anni. Fino a 4 anni. Ecco, io mi chiedo se una cosa simile non sarebbe più utile in termini di occupati aggiuntivi, e nel frattempo poi ponendosi anche il problema, perché se tu lo fai a tempo per 3-4 anni ma poi resta il cuneo fiscale molto elevato, dopo 4 anni l'azienda ti manda via, quindi nel frattempo poi dandosi il tempo per abbassare il cuneo fiscale ordinario per tutti, piuttosto che 100 euro o 70 euro in tasca in più a chi appartiene alle due aliquote più basse. Ricordo a tutti che in Spagna hanno anche alzato la soglia di esenzione totale dell'IRPEF, che era 11.000 euro di reddito annuo, l'hanno alzata a 12.000 euro, da noi resta solo di 8.000 euro. Sentiamo come la pensa Francesco da Ferrara. Prego Francesco. Salve Oscar, buona serata. Io semplicemente, diciamo, che ritengo che una manovra efficiente per ridurre dei costi, che è quello che a noi serve, secondo me, sul bilancio pubblico, sia almeno all'intorno del 10%, che significa all'incirca 80 miliardi. Sì, la spesa totale è più o meno 800 miliardi. Sì. Ma diciamo così che in generale anche l'idea pazza che mi è venuta, io sono abbastanza, come posso dire, sono liberista da questo punto di vista, per cui per me è un compromesso. Sarebbe come dire di seguire la linea PIL e quindi anche costi dello Stato, come a dire che da 4-5 anni il nostro PIL è calato del 10-15% e forse più, e non è calato il costo dello Stato. Questa è la mia idea, che ritengo neanche il governo riesca ad applicare. Salve Oscar, grazie. Salve a Francesco, sai che noi siamo quattro gatti per minoritari a fare questi ragionamenti con questa dura coerenza come quelli che ha fatto Francesco. Ci dobbiamo rassegnare. Segnalo a tutti, a coloro che fosse sfuggito oggi su Affari e Finanza, il supplemento del lunedì di Repubblica, leggetevi un articolo che inizia in prima pagina taglio basso e poi prosegue all'interno. L'autore è Alessandro De Nicola, che fa il conto elaborato dal professor Ugo Arrigo qui di Milano su quanta spesa è passata in 22 anni pubblica attraverso Ferrovie dello Stato e quanto è difforme dalla spesa media praticata dalle Ferrovie dello Stato pubblico in paesi come Germania e Francia, quindi grandi paesi europei che hanno grandi sistemi ferroviari più imponenti del nostro, e vedrete che in 22 anni la differenza di spesa pubblica in più per avere il servizio che abbiamo ammonta all'equivalente del 16% dell'intero nostro debito pubblico in 22 anni. La sola differenza rispetto alla media di spesa pubblica delle Ferrovie dello Stato e degli altri grandi paesi. Avete capito bene, non sto sbagliando a citare le cifre, quindi leggetevi quell'articolo e avrete un'idea, una buona risposta a chi vi dice: no, non si può tagliare la spesa pubblica, è già stata massacrata. Ma di che cosa cavolo stiamo parlando? Scusate, e non è vero che bisogna tagliare i servizi pubblici, questo è quello che ripete sempre chi invece difende lo Stato così com'è, e invece è indifendibile quando uno davvero elabora le cifre per fare bilanci comparati, perché lo Stato le cifre comparate per fare le giuste comparazioni non te le dà, e quindi devi studiare e tirare giù i numeri dai bilanci delle aziende pubbliche. Sentiamo ancora Luca da Brescia, prego Luca. Luca, sono Luca. Eccoci, vai in diretta. Eccoci qua. Ascolta, 30 secondi. Io ho un piccolo metodo per, a costo zero, andare veramente a trovare quei 20-30 miliardi all'anno. A costo zero. Ti spiego, se tu parli di infrastrutture è difficile andare a tagliare su quelle. Capisco. Andiamo a tagliare sullo stipendio dei dipendenti pubblici, che sono circa 3 milioni e 500 mila con indotto di para extra. Ti spiego, noi facciamo da privati 40 ore alla settimana, giusto? Sì. I dipendenti pubblici costano 500 miliardi circa, 400-500 di stipendi. Sì. Se tu a chiedersi un sacrificio a loro, che sono quelli che non sono mai stati toccati dalla crisi, perché loro lo stipendio. Vedo già i sindacati che insorgono, ma che sacrificio, rapido? Hai ragione, aspetta, te lo dico subito. Sì. Nel privato facciamo 40 ore, loro ne fanno 36. Sì. Attenzione, chiedere 4 ore in più di lavoro, dei limiti... aspetta, è semplicissimo. Vai. 4 ore, credi, mi ha fatto un conto con un grosso economista. Un'ora da un dipendente pubblico di media che va dallo spazzino al giudice di Cassazione. Più rapido, dai. Ascolta, costa circa 35 euro tra contributi e soldi. 4 ore alla settimana, sono 16 ore al mese. Per 30 euro, sono circa 500 euro al mese. Moltiplicato 3 milioni, guarda quanti soldi vengono. Va bene, tu dici lavorare di più i dipendenti pubblici, sei all'opposto di chi dice che sono un eccessivo numero. Come vedete, tante idee, tante opinioni, siamo divisi anche tra gli ascoltatori. Continuate su Radio 24.